Qualcuno, il sindacato dei medici, chiede un lockdown totale. Altri, dal Ministero della Salute, fanno sapere che nuove regioni potrebbero passare in zona arancione. Il tutto mentre prosegue la crescita di ricoveri negli ospedali, per quanto a un ritmo stabile, 1300 in più e 115 in terapia intensiva. Il tutto mentre si addensano ancora polemiche sulla Calabria dopo la sostituzione nel fine settimana del commissario alla sanità, che non aveva nemmeno preparato il piano pandemico. Ma gli occhi sono rivolti all'America, in queste ore, con Joe Biden eletto, con Donald Trump che non arretra e pur senza prove parla di brogli, con un passaggio di consegne che sarà tutto men che tranquillo, stando almeno alle premesse. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. When I am Marty Boom, I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. Ed eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, lunedì 9 novembre, sono le 6:32 minuti e 46 secondi, c'è Peter Bescapè in regia e c'è Giorgio De Luca in assistenza e redazione. E ci siete voi, vi aspetto al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. Dunque, ma quale rappresentazione migliore della parte peggiore del paese è questa vicenda della Calabria, Parte peggiore non in senso geografico, ovviamente, parte peggiore per tutto quello che rappresenta. Un commissario straordinario del governo che si apprende in una trasmissione del venerdì sera sulla Rai, titolo quinto, non sapeva nemmeno che avrebbe dovuto approntare il piano pandemico. Lei a giugno si accorge che non c'è il piano Covid. Esatto. E cosa fa? Faccio un quesito al ministero e dico: chi è che deve fare il programma operativo Covid? Ce l'ha qui questo parere? Il parere ce l'abbiamo. Lo vediamo. 27/10/2020. Ministero della Salute, dell'Economia e delle Finanze. E cosa le dicono? Chi deve farlo sto piano? Io. Dice: nelle regioni sottoposte a piano di rientro e commissariate, il potere dovere. Ma non è incredibile. Ma non è letteralmente incredibile questa storia. E là il giornalista gli dice: vabbè, lo vede, lo doveva far lei. E lui dice: sì, vabbè, son qua, domani mi cacciano. Allora perché non c'è il piano? Il piano lo sto realizzando io e la settimana prossima è pronto. Si rende conto che questa è una cosa grave? Che cosa le devo rispondere, dottore? La settimana prossima. Siamo in pandemia. Dopodiché va ospite di Giletti a Nonella Arena e tira fuori anche qua, perché è una persona rispettabilissima, Saverio Cotticelli, è un ex generale dei Carabinieri, però basta, cioè a questo punto anche basta. Sembrava la mia controfigura, dottore. Io non so in quel momento che cosa mi sia successo. La mia famiglia non mi ha riconosciuto. Io stesso non connettevo, dottore. Il piano anti-Covid l'ho fatto io. E ancora. Non mi riconosco in quell'intervista. Non so che cosa sia successo. Sto cercando di capire con un medico se ho avuto un malore o ho avuto qualche altra cosa. Io Non so veramente che dire. In certi casi meglio il silenzio, così come avrebbe fatto meglio a non farsi riprendere il neo commissario, il nuovo commissario deciso nel fine settimana, Giuseppe Zuccatelli, che per carità manager apprezzatissimo nel settore sanitario, ma anche candidato trombato alla Camera nel 2018 di Liberi e Uguali, il partito del ministro della salute Roberto Speranza, il quale sulle mascherine parla così. Perché per beccarti il virus, se io fossi positivo, tu sai cosa devi fare? Devi stare con me e baciarmi per 15 minuti con la lingua in bocca. Capito com'è? Certo, un audio vecchio, per carità, dell'inizio della pandemia. Zuccatelli che si lascia andare ad altre cose. Guarda, un altro audio pescato in un'intervista a una TV di alcuni ragazzi. Le bombole del gas sono più pericolose del virus. Cioè, voglio dire, quando si sente parlare che una bombola scoppia per aria, sapete, io ad esempio ho un riflesso condizionato di paura che quando sono in autostrada e vedo un camion con le bombole accelero per allontanarmi, perché mi viene, cioè, è anche successo, Il ministro Speranza dice sì, però sono 30 anni di carriera. Quel video è profondamente inopportuno, è anche un modo, io penso, molto sbagliato di comunicare, chiaramente viene da una stagione diversa, ma 30 anni di curriculum non si possono cancellare per un video sbagliato e rubato. Così dunque il ministro Speranza. Cara Marianna Aprile, buongiorno, come stai? Ma che rappresentazione meravigliosa, eh? Cioè, si fa per dire, siamo in piena pandemia con tutto quello che sta succedendo, però è una discreta rappresentazione della gestione. Che dici? Straordinari, sono straordinari però questi commissari. Cioè, dai. Fuori dall'ordinario sicuramente. No, hai ragione tu, cioè sembra un caso disegnato per raccontare tutto quello che non è andato negli anni precedenti in Calabria in particolare e che cosa non sta andando adesso nella gestione della catena di comando, delle misure da prendere e per i monitoraggi nella gestione della pandemia. C'è un tema fondamentale che è quello delle competenze. Allora, va bene i 30 anni di carriera, ma anche Cotticelli, insomma, non è che l'avessero preso per strada, comunque aveva una carriera, era un generale in pensione, quindi insomma le parole di Speranza teoricamente, se valgono per Zuccatelli, valgono anche per Cotticelli. Detto questo, servono competenze specifiche per questa roba qui e serve però anche una catena di controllo oltre che di comando, perché noi possiamo e sarebbe difficile non farlo, ridacchiare e stupirci e farci cascare le braccia su questi casi, però ci si chiede come mai sia dovuto arrivare l'ottimo collega di Titolo Quinto per capire che la Calabria non aveva ancora un piano anti-Covid. Chi altri doveva occuparsene? Marianna, mi stupisce che non sia uscito niente dalla regione, cioè la stessa regione avrebbe dovuto è chiaro che è in mano al commissario straordinario il piano pandemico, ma è possibile che nella regione nessuno, nella regione l'assessore alla sanità o qualcuno nella direzione generale della sanità non sapesse nulla del fatto che non c'era un piano pandemico? È un po' è veramente incredibile. E così che non lo sapesse neanche Cotticelli, perché tutto nasce da una richiesta di Cotticelli su chi dovesse farlo, quindi siamo proprio in un antro cavernoso e buio in cui nessuno sa come muovere. Cioè neanche lo schema, l'organigramma delle competenze è chiaro agli stessi interessati. Però ripeto, cioè, mentre a livello locale, come spesso accade non solo in Calabria ma anche in molte altre regioni dove poi le indagini arrivano e scoperchiano, a livello locale ci può anche essere una collocazione errata di persone che non arrivano lì per meriti precisi, ma a livello centrale, durante uno stato di emergenza che è stato giustamente rivendicato e durante la gestione centralizzata della pandemia che è stata giustamente rivendicata, qualcuno ci spieghi perché questa gestione centralizzata non prevede il controllo sull'esecuzione, che l'abbiamo visto anche nel trasporto pubblico locale. Ah, ma certo, tra l'altro Mariana, scusami, è commissario, quando diciamo il commissario alla sanità, non è un commissario, è un commissario del governo, esatto, alla sanità, cioè non è un commissario della regione alla sanità, è un commissario del governo, e quindi il controllo in questo caso deve arrivare dal centro, cioè scaricare sulla regione in questo caso oggettivamente non si può, quindi... Grande tema, questo è un tema, questo è un tema così come è un tema, a proposito di Titolo Quinto, che poi è il nome della trasmissione, è un tema questo del federalismo sanitario, che è sotto traccia e sta entrando anche un po' in ambito politico, con un'idea, lo abbiamo visto, che sta iniziando a circolare all'interno della maggioranza, di mettere mano al federalismo, in particolare al federalismo sanitario, sulla scorta di tutto quello che sta succedendo. Lo scontro su questo tema è stato anche politico, lo sappiamo, alcune regioni hanno detto ci hanno messo in zona rossa per una sorta di punizione politica, questa era l'idea. Così risponde il vice ministro Sileri, poi vi dico ospite da chi ieri, Non si tratta di un colore politico o quant'altro, si tratta di sicurezza nazionale. E la sicurezza nazionale passa attraverso questo, purtroppo, che è sacrificio. E il sacrificio è in primis di noi, che dobbiamo analizzare i dati, gestire, informare e dare. Ed è una sofferenza. E voi non immaginate che sofferenza ho io a pensare ai 38.000 morti, ai miei colleghi morti, ai miei colleghi che mi chiamano tutti i giorni e mi dicono fate zone rosse perché non ce la facciamo più. Lo vogliamo capire che stiamo in guerra. E stiamo lottando per salvare l'Italia. Punto. Ora non è un colore politico, io me ne infischio del 5 Bravo. Stelle, del PD, della Lega, chi se ne frega? Si parla di sanità, di salute. Punto. Oh, e a proposito della Calabria, scrive un ascoltatore, quello che è emerso era stato già detto per esempio dalle Iene tempo fa e nessuno ha fatto niente, i doppi, tripli pagamenti sono storia nota, esattamente il motivo per il quale poi la Calabria è stata commissariata a tutti gli effetti. Ricordo che quando ancora faceva effetto giorno, un paio d'anni fa, intervistammo l'ex direttore generale dell'ASL di Reggio Calabria, che raccontò delle cose pazzesche, tra cui il fatto che per esempio tra il 2015 e il 2018 non fu presentato alcun bilancio, non fu presentato il bilancio dell'ASL. Così siamo, così. I medici chiedono il lockdown totale. Tra un mese, se questo trend dovesse restare invariato, avremo altri 10.000 morti in più e supereremo la soglia fatidica dei 5.000 posti letto in terapia intensiva. Lo scenario che si prospetta è drammatico, non solo per la cura dei malati Covid, ma soprattutto per il trattamento di tutti i malati che hanno altre patologie. Per questo servono misure drastiche, come un lockdown totale, per evitare di arrivare a fine dicembre, inizio di gennaio, a dover sommare il trattamento dei malati Covid con quelli affetti da influenza. Eccolo qua, eccolo qua. Sileri parla della possibilità di chiudere la campagna. No, allora i criteri sono i numeri. È evidente che con le nuove trasmissioni dei numeri, il criterio analizzato 5 giorni fa, 7 giorni fa, oggi potrebbe non essere più valido e quindi potrebbe essere necessaria ovviamente la chiusura. Per Paolo Sileri, che ci ricorda qualche ascoltatore, ha appena scritto un libro, lo ha fatto lui, lo ha fatto il professor Bassetti, un momento editoriale straordinario, cara Marianna, che dici? Ecco perché rimangono aperte le librerie, diciamo. Cioè, adesso non ha a che fare con la cultura, naturalmente, con la protezione, con la difesa della cultura, ha a che fare col fatto che escono i libri dei virologi, dei viceministri. Poi c'è, cioè, il caso del libro di Speranza, hai visto, no? Che l'hanno ritirato, certo. È uscito, poi è arrivata la seconda ondata, l'hanno ritirato il magazzino in attesa di una nuova data, pare sia il 30 novembre adesso, però bisogna aspettare le curve anche lì. No, però come dicevi, cioè, tutte queste, mi ha fatto impressione ieri vedere Sileri così accalorato, perché di solito a dispetto di tutto mantiene la calma e rimane serafico, però è vero che sembriamo completamente fuori controllo. Cioè io oggi leggevo i giornali e dicevo, ma si discute sulla veridicità dei numeri, ci sono inchieste a Genova, pare che ne stiano aprendo anche a Napoli, sulla comunicazione dei numeri reali, sulle terapie intensive, eccetera, sulla base dei quali vengono decise le zone. Però anche qui sembra che si faccia melina su una cosa che a me, sarò io sbagliata, ma pare chiarissima, e cioè il sistema di monitoraggio, i famosi 21 indicatori, non funziona. Cioè, qualunque cosa sia successo, di chiunque sia la colpa, un sistema che ci viene raccontato come il fondamento sulla base del quale si prendono decisioni importanti come le chiusure, non funziona. Sì. Evidentemente non ha dei dati completamente affidabili e completamente trasparenti, che poi vuol dire non funziona. Non assicura quella certezza che ci viene raccontata, non la assicura, quindi qualunque sia la falla, in attesa di capire qual è e di sanarla, cambiamo sistema, perché i medici lo dicono a gran voce, le immagini lo dicono a gran voce, le testimonianze lo dicono a gran voce, ci sono zone che non sono rosse in cui non ce la si fa più, non ci sono più neanche i posti e le disponibilità per fare una TAC se si ha il sospetto di un tumore, perché gli ospedali scoppiano di malati di Covid. Quindi aspettiamo di capire se i 21 indicatori sono davvero affidabili. Intanto che succede? La tempestività che ci viene raccontata la dovremmo anche vedere a un certo punto. Sì, così come c'è anche un tema di velocità di trasmissione dei dati da parte delle regioni. Ieri alcune regioni non li hanno proprio trasmessi. La Marianna Aprile, giornalista di Oggi, resta con noi. Traffico e poi ci ritroviamo subito dopo e andiamo sugli Stati Uniti. Qualche ascoltatore già mi chiede del Salvini che abbiamo avuto ospite venerdì, ci arriviamo e poi ci ritorno anche alle 8:15. Traffico. Cosa è successo? Che venerdì abbiamo avuto ospite il leader della Lega, Matteo Salvini, nello spazio delle 8:45. In chiusura gli ho chiesto un commento sul voto negli Stati Uniti, se era dispiaciuto per la vittoria di Joe Biden, che a quel punto, una giornata di venerdì, era quasi certa, e ha detto, tra le altre cose, questa. Diciamo che il fatto che in alcune contee ci siano più voti che elettori, più schede che cittadini, qualche dubbio giustamente lo fa venire, quindi che stiano fermando e ricontando mi sembra necessario, perché come se a Milano ci fossero 2 milioni di voti quando siamo in 1.200.000. Confesso e chiedo scusa e lo rifarò ovviamente intorno alle 8:30, nel momento nel quale anche per rispettare noi i tempi nei quali abbiamo avuto Salvini. Confesso e chiedo scusa che questa ultima cosa che ha detto, eravamo in chiusura di trasmissione, mi ha colto un po' di sorpresa, e quest'ennesima teoria cospirazionista che era circolata nelle ore precedenti sul voto negli Stati Uniti mi era sfuggita e quindi non sono stato in grado di smentirlo, però è una notizia falsa, ok? Non esiste nessuna contea nella quale ci sono stati più voti che votanti. Era una cosa circolata in rete, presa da una TV locale americana, la quale aveva sbagliato la grafica ed era poi stata male interpretata. Salvini l'ha presa, l'ha detta in trasmissione da noi. Mi dispiace non averlo potuto smentire sul momento. E mi scuso per questo con gli ascoltatori, però sugli Stati Uniti ovviamente c'è la vittoria di Joe Biden ormai accertata, i ricorsi in arrivo da Donald Trump, e dato che abbiamo iniziato sorridendo con la vicenda calabrese, anche se tanto ridere non fa, cara Marianna, ti faccio sentire, la vicenda l'avrai letta perché è stupenda, questo audio di Rudy Giuliani, I know this city has a sad history. Allora, siamo a Filadelfia ed è la storia di questa conferenza stampa tenuta dal team legale di Donald Trump. È bellissima, perché cosa gli dice Donald Trump? Evidentemente gli dice: prenotate il Four Seasons, che è l'albergo più bello di Filadelfia, no? E non so, Marianna, se l'hai vista la storia. E cosa succede? Loro prenotano, telefonano, prenotano, e in realtà il Four Seasons è pieno. Però Donald Trump ha già scritto su Twitter che ci sarà una conferenza stampa al Four Seasons, e quindi prenotano in questo posto che si chiama Four Seasons, ma è un centro di giardinaggio tra un negozio per adulti e non so che cos'altro. È un forno crematorio. È un forno crematorio. No, vabbè, ragazzi, è strepitosa questa cosa. È la scena dell'anno. Andate a vedere le foto perché è bellissima. C'è Rudy Giuliani in questo luogo della periferia di Filadelfia. Tra l'altro, un luogo di una tristezza. Cioè, incomparabile con nient'altro. Cioè, io credo che ieri si siano suicidati centinaia di sceneggiatori perché non essere inventati una roba del genere non sarebbe, cioè, sarebbe sembrato troppo a tutti. Nemmeno, invece è tutto vero. Sì, anche il racconto, tra l'altro, dell'aria sperduta di Giuliani che viene portato in questo posto e non capisce bene come ci sia arrivato. Dice, ma non dove essere il Four Seasons, l'albergo? Arriva con la sua limousine e lo scaricano in questo posto in periferia tra un negozio di dildo e un forno crematorio. Guardate che è bellissimo. Tra l'altro, io immagino la reazione del titolare del negozio in cui c'è questo parcheggio, che è un negozio di giardinaggio, di piccoli attrezzi da giardinaggio, quando si è sentito chiamare dallo staff di Trump per prenotare il parcheggio. Cioè, sì. È una cosa surreale. Quello gli ha fatto anche il preventivo. Esatto. L'hanno chiamato. Lui ha detto, dice, avete uno spazio libero? Probabilmente non so se hanno verificato che fosse il Four Seasons oppure no. Avete uno spazio libero? Sì, guardi, abbiamo libero il giardino qua fuori, lo staff di Donald Trump. E montano su il pacco e attrezzano tutto quanto. Allora, Kamala Harris, la vicepresidente. And what a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president. Eccola qua, che dice, ha rotto Joe Biden una delle grandi barriere, ha selezionato me come una donna, come vicepresidente. Una donna, Kamala Harris, che è in parte afroamericana, in parte indiana. E poi tutto questo, tutta la riflessione che si aprirà su che cosa rappresenta la vittoria di Joe Biden anche per l'Europa, che cambiamento è nei nostri rapporti con gli Stati Uniti. Ci torneremo, ne parleremo alle 8:35. Cara Marianna Aprile, grazie anche per oggi per essere stata con noi. Una buona giornata, noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa. Oh, perché poi c'è un altro tema che non abbiamo toccato e che secondo me al quale bisogna accennare, che è quello calcistico, questo completo delirio delle ASL che bloccano i calciatori, i giocatori che devono andare in nazionale. C'è parecchia roba, oltre che inchieste delle procure. A tra poco.